Capitolo 4. I templi. L'archeologia moderna ha dimostrato che in Europa e nel vicino Oriente esistevano credenze religiose altamente sviluppate e centri di culto, templi, 5.000 anni prima delle ere classiche dei Greci e di Roma. La vita religiosa incominciò a gravitare sul tempio a partire dal VII millennio. Durante il Neolitico, questi templi dell'Europa antica accoglievano un sofisticato sistema spirituale. A tutt'oggi i loro resti forniscono manufatti e contesti che aiutano a sbrogliare la matassa del sistema religioso del Neolitico e ad analizzare il ruolo della forza divina nella vita quotidiana dei popoli che vivevano nell'Europa antica. Templi domestici nell'Europa sud-orientale. A molti il termine tempio evoca un edificio decorato, ricco di colonne, al modo della Grecia classica, sul genere del Partenone, separato rispetto alla zona residenziale. I templi antichi europei sono stati ignorati perché quando furono portati alla luce per la prima volta presentavano la stessa struttura architettonica delle abitazioni. In più non erano affatto separati dai centri abitati, anzi vi erano perfettamente integrati. Sebbene esteriormente questi templi assomiglino a delle case, contengono caratteristiche e manufatti che ne confermano l'utilizzo religioso. Il tempio dell'Europa antica aveva un altare, di solito una pietra o una panca d'argilla o una piattaforma rialzata coperta da assi di legno posta contro una parete. Gli scavi hanno individuato statuette assortite poste prevalentemente nei pressi di questi altari. Le statuette sono di dimensioni anche piuttosto grandi e decorate con dettagli realistici, oppure sono piccole e stilizzate. Alcune stanno sedute su sedie e troni in miniatura. Gli altari mostrano utensili rituali come focolari portatili in ceramica, coppe, lampade, piatti, mestoli, braceri per l'incenso e vasi. Attività quotidiane integrate nella pratica religiosa. I templi dell'Europa antica integravano le attività quotidiane femminili, in particolare la cottura del pane, la tessitura e l'arte della ceramica, all'interno di una pratica sacra. Molti templi contenevano due grandi strumenti usati per fare il pane, un forno a cupola e una pietra per frantumare il grano, o una macina per fare la farina. Alcuni templi enfatizzano l'importanza di questa attività con la presenza di grandi giare per le scorte, probabilmente per il grano. Un'altra serie di attività di cui si occupavano le donne nei templi erano la filatura e la tessitura. Benché il tempo abbia distrutto i telai di legno, eccetto i pezzi carbonizzati rimasti dopo gli incendi, la loro presenza può essere dedotta dai pesi di telaio fatti di ceramica. La presenza di questi pesi implica che le tessitrici utilizzavano telai verticali. Con gli scavi si è scoperto che la produzione di ceramica era parte integrante della vita del tempio. I templi potevano avere un laboratorio della ceramica in una stanza adiacente alla sala principale oppure al pian terreno se l'edificio era a due piani. I templi a due piani divennero piuttosto comuni dopo il 5000 a.C. Di solito contenevano i laboratori artigianali al pian terreno e un santuario al piano superiore. Con il tempo il secondo piano cedette sul primo. I manufatti del secondo piano avevano tutte le caratteristiche del tempio: un altare, modellini di templi, molte statuette e frammenti carbonizzati di telai verticali. Il pian terreno del tempio aveva ospitato il laboratorio della ceramica. Una parte del laboratorio conteneva un grande forno per cuocere la ceramica. L'altra parte aveva una piattaforma o un tavolo da lavoro con strumenti per la lavorazione e la levigatura della ceramica, tra cui lame di selce e raffinati strumenti in osso di cervo o di uccello. Nel secondo piano si trovavano parecchi grandi bacili, alcuni dei quali probabilmente venivano utilizzati come focolari cerimoniali. Il pian terreno originariamente comprendeva tre stanze, una delle quali conteneva anch'essa un bacile rotondo. Le altre due stanze erano occupate da due grandi forni. Questi avevano una forma originale, a tronco di piramide, e ciascuno spigolo era decorato con un bucranio, e bucrani, ossia le teste di toro, che simboleggiavano la dea, decoravano anche le pareti dell'edificio. Tutte le stanze erano piene di numerosi, splendidi vasi biconici di coppe con piedestallo. Per il ricercatore del XX secolo, l'interpretazione di queste case è un vero rompicapo. Rappresentava una normale abitazione piena di vasi? Era un tempio consacrato? O era un bizzarro ibrido dove le attività quotidiane venivano considerate sacre? Queste costruzioni sembrano incomprensibili agli occhi di chi, come noi, normalmente tiene ben separate le attività quotidiane dalle esperienze spirituali. Ma se si esaminano le forme e le decorazioni degli oggetti di ceramica, si vede che costituiscono un sistema simbolico coerente, un sistema che sarebbe stato superfluo se l'unico scopo di quegli oggetti fosse stato di apparire gradevoli alla vista. Sembra più probabile che gli abitanti dell'antica Europa modellassero la ceramica, cuocessero il pane e lavorassero i tessuti, dando a queste azioni un valore religioso, come prova la vicinanza del laboratorio al tempio medesimo. Le nostre antenate del Neolitico intrecciavano intimamente il sacro e il profano della loro vita senza segregazione ideologica. Arte, lavoro e religione erano cosa unica. Come segni del potere rigenerativo della dea, le pareti, i vasi, gli arredi e gli altri oggetti cultuali del tempio facevano mostra di simboli come uova, corni, spire di serpente, motivi vegetali, farfalle, alberi della vita, bucrani, triangoli, doppi triangoli, cerchi concentrici, colonne o serpenti sollevati e occhi, gli occhi della dea. Come segni di protezione della fertilità, la decorazione e il corredo dei templi mostrava ancora un altro genere di simboli: piante, biline, spirali, losanghe e immagini doppie. Nei templi dedicati alla dea serpente o alla dea uccello, un forno a cupola con una fossa per la cenere era situato ad ovest della piattaforma. Tra la piattaforma e il forno c'era sparsa della cenere organica e granelli bruciati, il che fa pensare a offerte di grano o di pane. Sul vaso c'era dipinta una dea in rosso, con strisce orizzontali di linea zigzag, scevrone verticali, serpi a meandro e spirali o spire di serpenti. I templi dedicati alla dea gravida della vegetazione consacravano la coltivazione del grano e la cottura del pane. Questa dea veniva venerata all'aperto e dentro i templi. I devoti della dea celebravano riti in suo onore in spazi aperti adibiti al sacro. In un cortile recintato scoprimmo un altare di pietra, un forno per il pane, un grande focolare e una piattaforma d'argilla con fosse per le offerte negli angoli. Quest'area conteneva anche statuette gravide e oggetti rituali in ceramica, grossi vasi con i manici rialzati. In altre zone, la presenza di miniature di templi della dea gravida e templi veri e propri stabiliscono una cultura dedicata alla dea gravida della vegetazione. Attività cerimoniali erano le offerte di grano, la creazione di indumenti sacri, sacrifici animali e libagioni, fumigazioni o purificazioni, ma anche offerta e preparazione di cibo sacro, offerte di bevande, utilizzo rituale dell'acqua, del latte o di altri liquidi. Grazie alla scoperta di modellini di templi, possiamo risalire a come venivano svolte le attività cerimoniali. Alcuni modellini sono privi del tetto in modo tale che si possa guardare nel loro interno, dove è possibile distinguere un microcosmo della vita che si svolgeva nel tempio. L'altare è vicino al forno del pane e di fianco l'area delle offerte. Un modellino trovato a Cucuteni in Romania, aperto, offre un'immagine estremamente eloquente dei rituali dei templi antico europei. Accanto al piccolo altare, al forno, alle giare e alle pietre da macina, si vedono due figurine umane, entrambe femminili. Una sta accanto al forno del pane, l'altra è china presso le macine, nel gesto di impastare la farina. In questo modellino viene mostrato ciò in cui gli archeologi raramente si imbattono, e cioè la rappresentazione di individui che mettono realmente in atto attività religiose. E ciò dimostra chiaramente che la vita quotidiana e quella religiosa erano una cosa sola. Sempre grazie alla scoperta dei modellini possiamo risalire a identificare come avvenivano le cerimonie del parto. La figurina più interessante all'interno di uno dei modellini trovati è la riproduzione in terracotta di una donna che partorisce. Tra le sue gambe, che sono andate distrutte per via del tempo trascorso sottoterra, emergono dipinte la testa e le braccia di un bambino. La statuetta partoriente sta seduta su una sedia, forse un sedile da parto. La partoriente indossa un pendente dipinto di rosso. All'interno del modellino ci sono altre statuette stilizzate, è probabile che raffigurino le varie attendenti al rituale del parto. Gli oggetti, i pestelli, i mortai, il levigatore, il peso del telaio, eccetera, stanno a indicare che le cerimonie della nascita nel tempio richiedevano una serie piuttosto complessa di preparativi, come preparare il pane, lavorare i tessuti e modellare la ceramica. Questo modellino di tempio, unico nel suo genere, conferma che la nascita assumeva significati sacri associati alle funzioni del tempio e della dea elargitrice di vita. Alcuni ritrovamenti fanno pensare anche a qualcosa di simile a strumenti musicali che probabilmente accompagnavano i rituali. Le statuette ci mostrano anche i costumi, gli abiti delle donne, fatti con frange, cinture, grembiuli, gonne corte e tuniche sbracciate. Anche scarpe, cappelli, acconciature, braccialetti, collane e medaglioni. Le statuette con i vestiti e ornamenti compaiono o a seno nudo o completamente vestite. Alcune indossano solamente una cintura, oppure una cintura che sorregge un grembiule o un'intera gonna sfrangiata. Altre indossano una gonna stretta e nient'altro. Le acconciature erano curate con grande meticolosità. I capelli venivano accuratamente pettinati e raccolti attorno a una chignon. Uno o due chignon spuntano da sotto le maschere. I lunghi capelli sono lasciati cadere sciolti lungo la schiena oppure sono raccolti all'altezza della nuca con una cinghia o un fermaglio. E ci sono anche molti tipi di copricapi, tra cui cappelli conici segnati da incisioni parallele. Capitolo 6. Struttura sociale matrilineare come configurata nella religione e nel mito. La dea creatrice partenogenetica. Durante le ere preistoriche del Paleolitico e del Neolitico, la fede in una divinità femminile come creatrice della vita rispecchia il sistema matrilineare o matrifocale che molto probabilmente esisteva in quelle epoche. Il simbolismo religioso è permeato di simboli basati sul corpo femminile che crea la vita. Immagini della madre e della coppia madre-figlia sono presenti lungo tutta l'Europa antica. Mentre l'immagine del padre, così prevalente nelle epoche più tarde, è del tutto assente. La dea è essa stessa la terra e la natura, pulsante con le stagioni, porta la vita in primavera e la morte in inverno. Rappresenta anche la continuità della vita, come eterna rigeneratrice, protettrice e soccorritrice. Il ruolo del padre nell'antichità preistorica non era compreso del tutto o non era valutato con le stesse attenzioni che si riservavano alla madre. Il corpo femminile dà prova di maternità, mentre il corpo maschile non dà prova di paternità. In più, in molte società le femmine non restavano legate ai loro partner sessuali. Ciò avrebbe reso impossibile stabilire la paternità, ovvero l'esatta identità del padre biologico di un bambino appena nato. La determinazione della paternità è una delle pietre angolari della cultura patriarcale successiva, tesa soprattutto a controllare il comportamento riproduttivo delle donne. Questa impossibilità di stabilire la paternità ha un effetto sulla struttura sociale, perché se il padre biologico non può essere determinato, la madre e il suo ceppo sono automaticamente il punto focale della famiglia e la struttura familiare è matrilineare. Il corpo della donna era considerato partenogenetico, cioè si pensava che creasse da sé la vita autofecondandosi, una caratteristica che veniva celebrata nella religione. Nell'epoca neolitica e ancor prima nel Paleolitico superiore, la religione era centrata sulla potenza femminile, come dimostra la predominanza del simbolo femminile. Proprio come il corpo femminile era considerato come la dea creatrice, allo stesso modo anche il mondo veniva considerato come il corpo della dea che crea costantemente la nuova vita da sé medesima. Il patrimonio artistico del Neolitico è prevalentemente femminile. Il corpo femminile, e in particolare le sue parti generative, la vulva, l'utero, il grembo, sono predominanti. La madre come progenitrice della famiglia e il ruolo della donna nella religione. Visto il simbolismo religioso del Neolitico, è estremamente difficile immaginare che la società dell'Europa antica non sia stata matrilineare, con la madre o la nonna venerata in quanto progenitrice della famiglia. Infatti, il mondo spirituale e quello sociale erano intimamente intrecciati. Una parte della religione dell'Europa antica era legata al culto degli antenati, nel quale veniva venerata la donna più anziana, progenitrice di un ramo particolare della famiglia. Ciò è più che mai evidente nelle sepolture delle donne più anziane nei pressi di case o templi e nei lunghi tumuli, nell'organizzazione spaziale delle tombe in alcuni cimiteri e nella simbologia particolarmente ricca dei manufatti seppelliti con le donne. Ovviamente la sepoltura sotto la casa aveva uno scopo specifico. La presenza di un'antenata particolarmente venerata sotto la casa ne assicurava la benedizione o la perenne presenza del suo spirito. In questo modo ci si garantiva la continuità della famiglia e del suo villaggio. Un'analisi degli scheletri ritrovati sotto le case dell'Europa antica o nelle loro vicinanze rivela che queste sepolture appartenevano quasi sempre a donne e di solito erano donne anziane. Questo è il tipo di prove che ci si aspetterebbe di trovare in una cultura matrilineare, nella quale le donne erano a capo di famiglie e di clan estesi. Una donna più anziana era l'antenato del quale si ricercava la benedizione, per assicurarsi la continuità della famiglia che da lei aveva avuto inizio, e la si venerava, seppellendola sotto una delle sue case o templi. A Kartaluyuk, nella Turchia centro-meridionale, lo scheletro di una donna molto anziana fu trovato sotto il pavimento di una delle più grandi sale del santuario, ai piedi della parete con un dipinto che misura in lungo 18 metri, raffigurante la stessa Kartaluyuk. Era stata seppellita con grandissima cura e ricoperta di gioielli. Si trattava indubbiamente della salma di una venerabile antenata. La caratteristica più evidente delle tombe dei cimiteri dell'antica Europa è la mancanza di enfasi sui beni materiali. Nel culto dei morti erano in gioco soprattutto le funzioni spirituali, più che la dimostrazione delle ricchezze individuali, che giunsero invece poi ad essere enfatizzate con le invasioni indoeuropee e la civiltà guerriera.